Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali. Buongiorno, buongiorno, è la decima puntata della trasmissione Restiamo Animali. Vi saluta la redazione, composta da Beatrice Montini, Camilla Lattanzi, Elisa Moretti, Giuseppe Coco e Lorenzo Guadagnucci. L'unica trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire in modo cruelty free, cioè senza causare sofferenza e morte agli altri animali. Vi ricordo che il titolo Restiamo Animali è una citazione ispirata alle parole di Vittorio Arrigoni, in particolare alla sua preghiera civile, quando scriveva da Gaza: restiamo umani. E secondo noi il modo più nobile e più alto di essere umani è recuperare l'origine che abbiamo in comune con tutti gli altri animali e lottare per i loro diritti e per la loro liberazione, per l'amicizia e la fratellanza che ci unisce a loro. E il cuore di questa trasmissione sarà la nostra visita alla manifestazione Vegan Fest di Serravezza, ma non mancherà la consueta rubrica di filosofia, il nostro consiglio letterario e anche una fantastica ricetta vegana. Giuseppe ci farà entrare nel mood necessario presentandoci la playlist di oggi. La playlist di oggi è come un gioco di immagini riflesse, vecchie e nuove generazioni a confronto. Inoltre, iniziamo e finiamo con lo stesso gruppo che ha al suo interno dei componenti che hanno scelto uno stile di vita vegan. Ci sarà spazio per un nuovo duo che coverizza un mitico gruppo ancora in auge vicino al mondo vegano, che a sua volta interpreta una canzone della più famosa band irlandese. Riconoscerete in sottofondo la famosa Model, qui spogliata dal manto elettronico e rivestita con abito cameristico dai Balanescu Quartet, mentre la chiusura sarà affidata ai Kraftwerk in carne e synth con la vetusta, ma sempre attuale, Radioactivity. Ascolteremo un duo vegan, anzi sono quasi tre come si fanno chiamare, composto da un violoncellista, una cantante e un iPad, che sono stati ospiti al Vegan Fest per presentare le loro cover destrutturate e rielaborate fra il pop e la classica. Oggi ascolteremo la celeberrima Enjoy the Silence dei Depeche Mode, che a loro volta apprezzeremo in una cover degli U2. La dedica sarà accompagnata dall'auspicio che giorni da cane sono passati e ascoltandole capirete il perché. Chi invece ha vissuto negli agi del successo e della notorietà è l'inossidabile Shirley Bassey, diva vegetariana che riesce a mietere successi ancora oggi, sempre con il suo sound un po' alla 00 Bausettete. L'angolo filosofico sarà ammantato dal sitar delle due generazioni Shankar e, come sempre, per riascoltare il tutto visitate il blog restiamoanimali.wordpress.com. E dedichiamo questa puntata ai 12 attivisti arrestati la scorsa settimana per aver violato i cancelli dell'azienda Green Hill di Montichiari, al fine di liberare una trentina di cuccioli di cane destinati alla vivisezione. I 12 attivisti sono stati scarcerati dopo 48 ore di detenzione e noi li salutiamo con ammirazione, perché li consideriamo attivisti di giustizia che hanno avuto il coraggio di infrangere alcune leggi, pagandone il prezzo, per segnalare a tutti quanto sia insopportabile la condizione di tanti animali segregati in allevamenti simili a quello di Green Hill, in attesa di finire nelle mani dei vivisettori. Legittimati questi ultimi da pretese scientifiche sempre più incerte e contraddittorie e da leggi che sempre più persone considerano ingiuste. La liberazione dei cuccioli detenuti nell'azienda Green Hill è stata un'azione di libertà e di giustizia, che indica una buona strada da seguire per costruire una società più equa e meno violenta. Run fast for your mother. Animal House. Notizie, interviste, attualità. siamo stati al Vegan Fest di Seravezza, una rassegna durata ben 5 giorni, con qualche decina di espositori del mondo vegan, del bio, della cosmesi naturale, dell'abbigliamento ecologico e molto altro ancora. Una fiera, nella quale siamo andati a cogliere alcuni aspetti che ci sono parsi curiosi, nuovi, originali. Al cuore di tutto, ça va sans dire, la cucina. Ve la raccontiamo da tre punti di vista diversi. Quello del cuoco tradizionale, che da poco si è avvicinato alla cucina vegan, quello dello chef controcorrente, molto affermato, una specie di guru della cucina vegan, e infine, secondo la prospettiva crudista. Cominciamo con Chicco Coria, chef a Bergamo, all'antico ristorante del Moro, e autore, con Renata Balducci, di un libro appena uscito, Nobili scorpacciate vegan, le quattro stagioni. Per mangiare c'erano varie possibilità e noi abbiamo deciso di sederci nel ristorante principale, quello appunto gestito dal famoso chef Chicco Coria. Menù fisso 30 euro, 4 portate, vino escluso. Pappa al pomodoro rivisitata con riso venere scuro e parecchio al dente, pasta e ceci con mandorle al timo e maggiorana, cipolla fiorita compassata di melanzane, crostata all'olio extravergine e confettura di frutti rossi. Acqua Norda, purtroppo, in bottiglie di plastica. La parola al grande chef. Nonostante diciamo, la cucina vegana abbia l'esigenza di ridurre il paniere degli ingredienti, ci siamo anche divertiti a sviluppare nuove idee, nuovi accostamenti, nuovi equilibri dei piatti. Quando abbiamo dei grandi numeri preferiamo fare delle preparazioni dove la gente sappia cosa c'è nel piatto, perché se si eccede nell'accostamento o nell'innovazione si rischia di non far contenti la maggior parte della gente, perché è un conto il ristorante alla carta, uno viene e sceglie e allora mi dice ok, io sono curioso di assaggiare per esempio la banana caramellata col peperone, è una sua scelta, perché sa che gli piace la banana, sa che gli piace il peperone. Sui grandi numeri è meglio standardizzare un attimo la tradizione, perché tutti sanno quello che stanno mangiando, altrimenti c'è il rischio che qualcuno assaggi però dice boh, non so, mi piace, oppure la paura di non ammettere l'ignoranza, nel senso di non conoscenza della materia, che tendenzialmente porta la gente a non chiedere mai cos'è, perché eccetera eccetera, e alla fine il cliente di solito è scontento. Basilarmente la nostra cucina è già fatta di molta verdura e ortaggi, perché seguiamo molto la stagionalità anche nei menu che facciamo di fuori dalla cucina, della filosofia vegana. La sperimentazione è nata proprio nel, come dicevo, come mettersi in discussione riducendo un attimo gli ingredienti, il paniere degli ingredienti, però trovando nuove soluzioni, cioè nuove strutture. Solitamente nei piatti cerchiamo sempre di mettere una struttura morbida e una piuttosto croccante per poter dare una masticazione, un qualcosa che possa prolungare il piacere del gusto. Quindi il riso era volutamente un po' più al dente, sì. Sì, è proprio per scelta, perché altrimenti scivola velocemente la pappa al pomodoro e invece col riso abbiamo qualcosa da masticare. Una varietà anche di consistenza. La varietà di consistenza è il riso nero, perché è più profumato, è un riso praticamente non brillato, quindi con tutte le fibre, con tutte le sostanze nutritive, ma la scelta proprio come accostamento è quella di dare masticazione. Abbiamo proprio un menù vegano, noi siamo certificati vegan, abbiamo sia il menù vegano che il menù onnivoro, cioè lavoriamo a 360 gradi. Perché abbiamo anche una clientela che ha esigenze diverse, cioè la filosofia vegana diventerebbe un po' troppo complessa, cioè unica a se stessa in un ristorante con le nostre, cioè che ha delle esigenze diverse, con le nostre esigenze sono un po', come posso dirti, non è limitativa, però ho delle esigenze che, siccome la clientela è 50% straniera e 50% italiana, hanno culture diverse, modi di cibarsi diversi, modi di bere diversi, noi dobbiamo essere aperti a 360 gradi. Da quando siamo stati certificati, che è stato un po' anche una sfida, nel senso sotto l'aspetto professionale culinario e di proposta, anche sotto l'aspetto commerciale, ci siamo stupiti perché la gente più che altro è incuriosita, e quando la gente è incuriosita tendenzialmente e spesso e volentieri ci è capitato che per curiosità gli assaggi, oppure strappano un pezzo di, cioè un piatto dal menù vegano e un piatto dal menù tradizionale. Sicuramente portando un progetto nuovo o lo fai e lo sposi con convinzione, quindi automaticamente c'è un cambiamento anche interno, nel senso di come proporre i piatti, di cosa utilizzare eccetera eccetera. Per quello che riguarda il discorso generale siamo ancora un po' lontani, secondo me bisogna fare ancora tanta strada. Vows are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, plans are streaming. Stefano Salvini, già chef del celebrato ristorante Gioia di Milano, ha lavorato anche in Irlanda e in India, ha approfondito la cucina ayurvedica. Salvini a Seravezza ha tenuto un seguitissimo seminario, cucinando un piatto di verdure e legumi su una base di maionese e caviale di pomodoro, da leccarsi i baffi. Stefano Salvini, fra le altre cose, è lo chef di fiducia dell'Istituto Europeo di Oncologia di Umberto Veronesi e ha appena pubblicato anche lui un libro. Si intitola Cucina Vegana, l'editore Mondadori. A Salvini abbiamo chiesto come si caratterizza come cuoco. Fin da piccolino ero molto sensibile, stavo ore e ore ad osservare le mucche, così in una sorta di stato anche meditativo. E poi in età adulta, come ti dicevo prima, ho letto alcuni testi di tradizione buddista. Io non sono buddista, però mi hanno aperto un mondo nuovo, un mondo fatto di persone, di affetti, ma anche rivolti al mondo che ci circonda, non soltanto agli esseri umani. E questo si traduce in cucina, in una scelta di campo ben precisa. Si può fare soltanto cucina vegetariana per essere in armonia con queste istanze più profonde. Quindi per me la scelta è facile, tant'è vero che una volta mi chiesero davanti in diretta TV, mi dissero: ma tu quando, come hai fatto a diventare vegetariano? E io risposi in maniera molto semplice, che per me è stata una scelta assolutamente semplice. Gioia è un ristorante, è il ristorante vegetariano più famoso al mondo, stellato Michelin, eccetera eccetera. Ho contribuito a creare dei presupposti vegetariani all'interno del Gioia, perché all'epoca il Gioia era ancora maculato dal pesce, e nel corso degli anni siamo riusciti assieme al capo a spostare questo interesse esclusivamente sul mondo vegetariano. Questo è stato, ecco, un po' il mio merito, se vuoi. Pietro Lehmann, il boss del Gioia, è riuscito a creare anche un'opportunità a mezzogiorno interessante, ovvero si chiama piatto quadro, è una soluzione che prevede, anzi più che soluzione, è una proposta culinaria che prevede 5 portate, 5 micro portate, a un prezzo pop 20 euro. Il discorso è che al Gioia ha aumentato il lavoro dopo questa scelta, perché erano i vegetariani che non venivano, si sentivano, se vuoi, condizionati negativamente dal fatto che ci fosse anche il pesce. Quindi quando abbiamo tolto il pesce, cosa è successo? Dal giorno dopo è aumentato il lavoro, però è il Gioia. Se lo facessero tanti altri ristoranti, probabilmente la risposta sarebbe negativa. Spesso questa scelta si traduce anche in un insuccesso economico. Io credo che il Gioia sia un'eccezione e come tale debba essere trattata e analizzata. Io sono stato quest'anno ingaggiato da Identità Golose, tu sai che cos'è, è una kermesse di altissima cucina internazionale. Per la prima volta mi hanno contattato come chef vegano, e quindi ho fatto un'esibizione quest'inverno a Milano, e accanto a me c'erano i più grandi chef al mondo, i più grandi chef, top chef mondiali, erano accanto a me, io con la mia proposta vegana, Pietro Lehmann con quella vegetariana, e poi i più grandi con le loro proposte straordinarie sul piano cromatico, su quello etico, a mio avviso un po' vecchie, ecco. Quindi se io guardo l'opportunità che mi hanno dato, direi che la risposta è assolutamente positiva. Te la devi però guadagnare sul campo, perché hai lavorato tanti anni nell'oscuro, girando, facendo esperienze. Sì. Tu nella tua vita privata sei vegetariano? Sono vegano in questa fase. Da 2 anni, da quando ho dato le dimissioni da Gioia, ho scelto di eliminare anche i formaggi. Era l'unica cosa, perché io sono stato per tanti anni lacto vegetariano, quindi ho aderito a una dieta ayurvedica per scelte di campo. Nella dieta ayurvedica non si escludono i latticini, anzi si consiglia anche il consumo dello yogurt oppure del latte intero, perché questo secondo loro agevola alcune funzioni metacognitive. Quindi è una scelta spirituale, è una scelta ecologica, è una scelta salutistica? È un po' tutto. Certamente quella etica è forse più importante, e soprattutto quella etica si sta sostanziando sempre di più. Con il passare degli anni quella etica prende sempre più forza rispetto alle altre motivazioni. Ci sono anche le altre, ci sono le motivazioni salutistiche, igienistiche, economiche, legate all'ecosostenibilità, però a mio avviso per molti vegani che sono anche qui presenti la scelta etica è la motivazione più cardine, più importante. Restiamo animali. Siamo a Cruditaly, la cucina italiana allo stato crudo, dello chef Vito Cortese. Che relazione c'è fra il crudismo e l'animalismo? l'animalismo. E l'animalismo, la tutela degli animali, anche nel cibo. Guarda, in realtà il crudismo, in realtà no, non hanno nulla a che vedere, cioè sono proprio due binari paralleli. Il crudismo è una filosofia alimentare che prevede l'uso, il consumo di cibi solo esclusivamente di origine vegetale, crudi, completamente crudi, quindi sostanzialmente frutta e verdura. Perché questo? Perché gli alimenti crudi, cioè ciò che ci offre la natura sostanzialmente, fornisce all'uomo tutto ciò di cui ha bisogno. Nel momento in cui noi andiamo a cuocere i cibi, perdiamo una buona parte delle proprietà nutritive degli alimenti che ci servono per nutrirci, non per ingozzarci, ma per nutrirci e stare bene. Questo non prevede l'uso di proteine animali, che è sostanzialmente un'invenzione. Noi non abbiamo bisogno come esseri umani di proteine animali, quindi no carne e neanche latte, latticini. Siamo gli unici mammiferi in natura che bevono latte di altri mammiferi, no? Quindi è una cosa proprio contro natura. Per cui ecco, siamo su due binari completamente paralleli, e il crudismo di per sé viene visto di solito come una diciamo dieta estremamente rigida, la più rigida in assoluto, tutto crudo e solo vegetale. Infatti dopo un mese di insalate e frutta cruda ti vorresti sparare sui piedi. Quindi noi abbiamo portato il crudismo e lo abbiamo abbinato all'alta cucina, cucina gourmet, e quindi puoi mangiare delle cose golosissime, gustose, soddisfando gusto, piacere e benessere. Le persone non credono sia possibile mangiare cose gustose come una crostata di frutta fresca, del formaggio caprino vegetale, un tiramisù o un tortino al cioccolato caldo, senza usare uova, zucchero, burro, latte e farine, che sono sostanzialmente la causa di tantissime intolleranze alimentari insieme al latte. Quindi noi vogliamo diffondere questa filosofia alimentare con una collana di video ricette, perché pensiamo che uno chef ti debba dire proprio vis-à-vis, quindi in video, quali sono i trucchi e i segreti per realizzare queste meraviglie. Qui vediamo dei piatti, una crostata direi di ricoperta di fragole. Un'altra cosa che ho difficoltà a identificare è un caprino vegetale. Formaggio caprino vegetale con cracker alle erbe. La rivisitazione crudista dei cantucci di Prato. Una barchetta di peperoni ripiena la crema di pistacchio. I biscotti al cioccolato, che io ho ridefinito biscrudi, che non sono cotti. Questi sono champignon ripieni al pesto. Poi abbiamo le praline di cioccolato crudo. Il cioccolato crudo è una delle cose migliori in assoluto. Quando noi prendiamo il cacao direttamente dalla fava di cacao e non la tostiamo, no? O non lavoriamo il cioccolato a 90 gradi per far sciogliere lo zucchero, manteniamo inalterate tutte le proprietà del cacao, che sono favolose per il nostro organismo. Quindi nel crudismo si usa tantissimo il cioccolato crudo, derivato direttamente dalla fava di cacao. Poi possiamo fare anche delle zuppe. Non si crede che nel crudismo, tutto crudo, quindi tutto freddo, si possano fare delle zuppe. Bene, noi facciamo delle zuppe ad esempio di spinaci con crostini di mandorle. E come le scaldiamo? Le possiamo scaldare o in un essiccatore o, se non ce l'abbiamo, a bagnomaria. Una tecnica assolutamente sana che ti permette di gustare in inverno pietanze calde e quindi di soddisfare anche il bisogno di calore, no? Tortino al cioccolato crudo, che è una cosa meravigliosa a vedersi. Spaghetti di zucca ai funghi porcini, uno strudel di mele, pane alle cipolle, la versione cruda della panna cotta, che quindi è stata ribattezzata panna cruda. Una rivisitazione del sushi, cioè possiamo fare veramente qualsiasi cosa con il crudismo. E come abbiamo potuto ascoltare, l'animalismo non è necessariamente un sentire comune all'interno degli espositori del Vegan Fest. Ma noi andiamo avanti e proseguiamo la nostra visita. Un'azienda marchigiana nella quale era già presente una sensibilità ecologista incontra la richiesta del popolo vegano, che vuole delle scarpe sempre più raffinate, sempre più ecologiche, di materiali più innovativi. Nasce un progetto di scarpe in sughero e canapa veramente molto originale. Abbiamo incontrato Ronny di Risorse Future e lo abbiamo intervistato. Risorse Future calzature ecologiche, questo è il nome della vostra... Sì, Risorse Future, adesso diventerà Green Peletto, calzature vegetali. naturali, per cui usiamo sia il sughero, tessuto di sughero, che canapa, e anche come materiale come suolo usiamo una bioplastica d'origine dalla canna da zucchero, in modo tale da avere tutta quanta la scarpa d'origine vegetale. Come è nata questa idea? L'idea è nata, noi volevamo fare le scarpe ecosostenibili, noi siamo un calzaturificio che dagli anni 50 lavora, volevamo fare questo scarpe ecosostenibili in Terra Futura, fiera di Firenze dello scorso anno, siamo stati visitati da parecchi vegan chiedendoci delle scarpe adatte, cioè senza l'uso di materiali che provenissero dagli animali. Noi abbiamo visto la produzione attuale, allora era unicamente di plastica, questo per noi dal punto di vista ecologico era non era giusto, poi con la plastica, con la microfibra lorica, il piede non respira, abbiamo provato a usare questi due materiali innovativi ed è andata bene. L'idea nostra è di fare dei modelli abbastanza classici, carini, che incontrassero insomma il gusto un pochettino dell'italiano. Di dove siete? Marchigiani, della zona calzaturiera del Fermano. Da dove arrivano i materiali con i quali fate le vostre calzature? Il sughero è il Sugaris e viene dalla Sardegna, è un brevetto di una signora sarda, Anna Grindi, che l'ha inventato ed è eccezionale perché oltre è una vera e propria pelle vegetale e ecologicamente è stupendo. E invece la canapa, purtroppo non c'è più un filo di canapa italiana, anche se stanno cercando di rimettere sulla filiera, e la prendiamo dalla Romania. Bioplastica, questa che ti dicevo, l'Apinat, è fatta da una ditta, un brevetto di una ditta italiana, e noi siamo riusciti appunto a trovarla a un costo sicuramente maggiore, però ecco, si degrada in situazione di laboratorio del 90% in 180 giorni, in 6 mesi, per cui rispetto a una plastica che ha tempi di degradabilità di 500-800 anni, sicuramente è un altro materiale. E per avere più informazioni e eventualmente ordinare le vostre scarpe, gli ascoltatori cosa possono fare? Assolutamente sul sito, il sito è www.risorsefuture.net, oppure quello nuovo che sta mano a mano prendendo il posto, greenpeletto.it. Sarete a Terra Futura a Firenze? Sì, sì, sì. Allora lì con ci un vediamo gruppo. Lì. Grazie. Grazie a te. A te. Ciao. Crashing into my little world, painful to me, tears right through me. E ora incontriamo Troglodita Tribe, un facitore di libri, o come dicono Fabio e Lella, un eco editore casalingo. Fabio e Lella hanno un'attitudine ecologista, libertaria, antispecista. Hanno lasciato Milano per andare a vivere in campagna, all'insegna della parsimonia e dell'autoproduzione. Un esempio da considerare per tutti. Ecco, Troglodita Tribe, un editore molto particolare, libri autoprodotti e società per le azioni felici, come si autodefinisce. Troglodita Tribe ha pubblicato recentemente un libro sull'antispecismo, l'antispecismo spiegato a mia madre. Ora vediamo altri titoli, uno è Cuore antispecista, un altro ha un titolo veramente curioso, Al vegetariano fai sapere quanto è buono il tofu con le pere. Chiediamo a Fabio di spiegarci il senso di questo libro. Niente, è un libro appunto rivolto, dedicato ai vegetariani, in cui si racconta innanzitutto qual è ancora il loro legame abbastanza forte con lo sfruttamento animale. Quindi l'invito è quello di andare oltre e di passare al vegan e di non considerare più il vegetarismo una dieta alimentare, ma appunto prendere in considerazione l'antispecismo, quindi vedere la cosa attraverso lo sfruttamento che comunque avviene nei loro confronti e la connessione che c'è con l'ideologia del dominio, che si lega poi anche allo sfruttamento delle altre persone, al razzismo, al militarismo, eccetera. Qualche titolo fra i tanti, ad esempio libri che sono ottenuti attraverso le piegature di un foglio, ce ne sono molti, e qualche titolo In favore degli animali, I diritti di chi è vegan, Dichiarazione di felicità permanente, I diritti dei bambini e delle bambine, I diritti degli innamorati e delle innamorate, e poi anche la pubblicazione di una storia a fumetti ripresa dalla rivista anarchica A, che si intitola Nostra patria e il mondo intero, famoso slogan anarchico, è dedicata allo specismo. Sì, questo è appunto è un fumetto di Cossi e Nuvolotti, che sono persone che fanno un fumetto particolare, perché fanno un fumetto sociale. Allora noi abbiamo chiesto a loro di poter fare questo piccolo libretto per diffondere l'antispecismo. Una piccola perla fra le pubblicazioni in materia di questi ultimi tempi. e oltre ai numerosi espositori, l'area del Vegan Fest comprendeva un palco per i numerosi concerti, un dog bar per gli amici cani, una struttura dove si tenevano corsi e laboratori molto molto partecipati, un'area yoga e un percorso sensoriale per chi girava a piedi nudi. L'appuntamento è per il prossimo anno. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Per i consigli letterari di oggi presentiamo il libro I cani della peste, scritto nel 1977 da Richard Adams, più famoso per il romanzo La collina dei conigli. La recensione è stata preparata da Elisa Moretti, redattrice della trasmissione Restiamo Animali, che dopo una breve sintesi del contenuto del libro ci spiegherà perché per lei è stato tanto significativo. Snitter e Rolf sono due cani rinchiusi in un laboratorio di vivisezione insieme ad altri cani, topi, criceti, scimmie e altri animali, tutti sottoposti ad esperimenti. Rolf viene immerso quotidianamente in una vasca piena d'acqua e lasciato per ore ad annaspare, finché privo di forze, proprio quando rischia di annegare, viene ripescato dai suoi torturatori. Ma Rolf sa che prima o poi gli umani lo lasceranno affogare. L'esperimento a cui è stato sottoposto Snitter invece riguarda il cervello e le sensazioni. A causa di questo il cane porta una benda nera a coprire la scatola cranica scoperchiata. Inoltre soffre di allucinazioni, incubi, flashback e si considera, forse non del tutto a torto, pazzo. Grazie alla sbadataggine dell'inserviente, che una sera non chiude la gabbia in cui sono rinchiusi, i due cani riescono a fuggire e si ritrovano nella regione dei laghi, in Inghilterra, cercando di sopravvivere a una natura selvaggia e ai lavoratori del centro ricerche che sono sulle loro tracce per riportarli nel laboratorio. Gli abitanti della zona inoltre vengono a sapere che nel centro ricerche su animali erano in corso esperimenti sulla peste bubbonica e così contro i due cani parte una caccia spietata, alla quale parteciperà addirittura una squadra di paracadutisti. La salvezza dei due cani dipende dall'incontro con una volpe che insegna loro a cacciare e a nascondersi. Ma Snitter non vuole fare il cane selvatico, per lui un cane deve avere un padrone, come quello con cui condivideva i suoi giorni prima che un incidente stradale li dividesse e lo condannasse alla reclusione del laboratorio. Gli animali si mettono quindi alla ricerca della favolosa Isola del Cane, che nella fantasia di Snitter è situata al largo delle coste britanniche, ma quello che troveranno con un colpo di scena finale sarà del tutto inaspettato. Così come nella Collina dei Conigli, la storia narrata in questo libro è in gran parte vista con gli occhi degli animali, a cui l'autore riesce a dare spiccate personalità, mentre gli uomini si muovono soltanto sullo sfondo. L'autore dimostra in questo libro di avere a cuore alcuni temi animalisti. Pur essendo un romanzo, infatti, le pagine in cui viene descritto il centro ricerche sugli animali sono un grido di dolore, con cui Adams si scaglia contro la vivisezione, presentata come inumana e inutile. Oltre alla vicenda principale, inoltre fa riflettere la presa di coscienza di uno dei ricercatori, che dopo essere stato assegnato a un esperimento di deprivazione sensoriale su un cucciolo di scimmia, comincia a provare compassione per gli animali che dovrebbe torturare, tanto di decidere di lasciare il lavoro, non prima di aver compiuto un gesto che gli procurerà le simpatie di tutti i lettori animalisti. Un altro tema trattato nel libro è quello della caccia alla volpe, tema molto caro all'autore, tanto che nel 1983 si candidò alle elezioni politiche britanniche come conservatore indipendente, proprio con il proposito di presentare una piattaforma di legge per vietare questa pratica crudele, da troppi considerata alla stregua di uno sport. Ho letto questo libro solo pochi anni fa, quando già ero animalista e con la LAV andavo nelle scuole superiori per presentare un video e discutere di vivisezione. Conoscevo quindi già il tema, ma in modo per così dire scientifico, poco empatico. Probabilmente è proprio per questo che la storia dei cani della peste mi ha coinvolta molto. Infatti, pur essendo consapevole che la vicenda narrata è frutto della fantasia dell'autore, contemporaneamente sapevo molto bene che la realtà dei laboratori descritta nel libro è assolutamente plausibile. Dai cani della peste nel 1982 è stato tratto un cartone animato, mai doppiato in italiano, che però si trova facilmente su YouTube con il titolo originale del romanzo, The Plague Dogs. Il libro invece non è più in stampa, ma si trova in molte biblioteche oppure nei mercatini di libri usati. Consiglio decisamente a tutti di leggere questo libro, cercatelo o fatevelo prestare. È una lettura più leggera e coinvolgente di un saggio sulla vivisezione, ma ugualmente pone molti interrogativi che, nonostante siano passati 35 anni dalla pubblicazione, sono tuttora decisamente attuali. Head in heaven, finger. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Siamo tutti perfettamente in salute, anche se qualcuno dice, qui nella redazione, qualcuno mormora che il purè sia un piatto da ospedale. Infatti, la ricetta di oggi sarà purè vegano e per i fiorentini lo chiameremo mashè o mashè Diane se mettiamo la bendina sugli occhi. Mascella poca perché il purè mascella poca perché non c'è bisogno di masticare. Una specialità ospedaliera che innalziamo a prelibatezza vegan, senza latte, senza burro, senza infamia, ma con tanta lode. 10 e lode. Gli ingredienti che sentirete è per fare una ricetta per 3 persone. Occorre 500 g di patate pelate, 150 g di latte di soia o latte d'avena, 15 g di olio d'oliva o, se volete una versione più tradizionale, di margarina vegetale o di soia, sale e noce moscata. E per Camilla, naturalmente, l'immancabile cumino. Cumino! Solo sì! Per lei. Preparazione. Lessate le patate in acqua salata o al vapore. Una volta cotte, schiacciatele con una forchetta o passatele nello schiacciapatate. Hai mica lo schiacciapatate, te? Sì, pur residuato. Io no, mi tocca la forchetta, quindi. La forchetta, se no te lo presto. Grazie. Dopo mettete il tutto in una pentola, aggiungete sale e noce moscata e anche l'olio. Successivamente unite poco per volta il latte caldo. Fate cuocere tutto a fiamma bassa, mescolando con un mestolo fino a quando il purè diventa una crema soffice e naturalmente cremosa. Da aggiungere, per chi guarda il blog, vedrete che insieme ad una cotolettina, quindi proprio una cosa quasi ospedaliera, una cotolettina di tofu naturalmente. E col peposo di seitan come ci sta? Secondo me ci stona un po'. Ci stona, niente, non è passato. Cosa di solido, si vede che come proprio. Niente, non ci siamo. Proprio ospedaliera. Ospedaliera, mi ritiro nella mia clinica privata. Vegana. Vegana. Perché io sgrano vegano. Sostiene Vallauri. Credo che si possa parlare di una specie di endorazzismo o di endospecismo tra gli animali dominati dall'uomo. Cioè ci sono delle razze ultra protette e delle razze da macello. Il primo abisso è quello tra l'animale raro e l'animale anche troppo diffuso, la tartaruga delle Galapagos e i conigli o i cinghiali. I primi trattati quasi meglio di ogni uomo, i secondi massacrati. Poi la seconda distinzione abissale è quella tra gli animali da affezione e quelli da macello. Per gli animali di affezione si arriva all'idolatria. Sono dei pierini, dei figli di papà, dei figli di famiglia. Sono preferiti ai figli, ai nipotini. Nella nostra società malthusiana il numero di cani e gatti è impressionante. Si raccontano storie commoventi. C'è una predilezione smisurata rispetto al banco della carne al supermercato, che poi serve anche per gli animali domestici. Non so qual è la cifra nera della carne mangiata dagli animali, ma penso che sia grandissima. E questo dimostra una completa assenza di sguardo ontologico, di sguardo realistico, una cecità autoprocurata, perché il sistema nervoso e la capacità di sentire del maiale immolato non è minore di quella del cane. Quindi c'è un atteggiamento egoico del proprietario del cane idolatrato, che poi mangia la bistecca o il salame, che io trovo ripugnante. È come se avesse due emisferi nel cervello che non comunicano. Io simpatizzo con un avvocato, non so bene se reale o immaginario, che tiene come un cane di famiglia un maiale e gli ha creato una doccia. Il maiale va lì, mette la zampetta sul bottone e si fa la doccia un sacco di volte al giorno, adora fare la doccia. Ecco, meglio quello che gli zamponi e i cotechini di Capodanno. E siamo in chiusura. Contenuti, fotografie, ricette, playlist, troverete tutto quanto nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com e scriveteci, aspettiamo consigli, suggerimenti, esperienze, ma anche critiche eventualmente a restiamoanimali@controradio.it. Il nostro saluto è Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Con il contributo di Terra Nuova, il mensile di ecologia pratica, da sempre dalla parte degli animali.